Il sottotitolo, come succede praticamente ogni anno, viene da qualcosa che a un certo punto si accende e dice: beh, se lo chiamassimo il peso del fuoco. E poi è in relazione a un'immagine, che è una visione, diciamo, dove c'è questo vulcano di carta con una palla sopra del mare, che parlando con i grafici specialissimi, Massimo Golfieri, Concetta Nasone, iniziamo una discussione su come può essere, può diventare, eccetera, e quindi il peso del fuoco abbinato a questa immagine ha un senso ancora diverso, se preso da solo piuttosto che con l'immagine, appunto. E più che spiegarlo, che mi piace che ci siano più e diverse interpretazioni, che ognuno possa dare anche la sua, per me semplicemente, venendo anche dall'anno scorso, che era valutazione del vento, spesso capita durante il festival che mi viene in mente una cosa per l'anno dopo. E sono gli elementi protagonisti. Sì, in questi ultimi due anni sì, però per tanti anni è rimasto sempre momento maggio, dai 5 ai 10 anni. Bello. Poi invece portare tutti gli altri 35, gli altri anni invece è sempre cambiato. Il primo anno era la lingua mi cercava le parole, sì. Da lamento per la morte di Pasolini, canzone, musica di Giovanna Marini, che ascoltai per la prima volta fine anni 80 e rimasi impressionato, e quando nacque il festival mi piaceva questa idea, pensa, quello era lamento per la morte di Pasolini, questa era la nascita di Angelica, ma mi piaceva come che uno, la lingua mi cercava le parole perché sei appena nato, stai cercando un tuo modo, un tuo spazio, una tua modalità di inserirti nel contesto di una città e dei festival. Certo, beh, intanto già queste sono belle emozioni, aggiungiamo anche diverse sedi e collaborazioni, Bologna, Modena, Conservatorio. Sì, quest'anno siamo alla Basilica di Santa Maria dei Servi, okay, al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, fondato da Angelica nel 2011, quindi sono 15 anni quest'autunno. Questa sede meravigliosa. Del Centro di Ricerca Musicale. Poi siamo a Modena, al Teatro Comunale, che sono più di 22 anni che facciamo progetti in coproduzione. Questi sono un po' gli spazi, sì, di quest'anno. Poi c'è questo progetto a Modena che vede la partecipazione e collaborazione dei conservatori di Cesena, Bologna, Ferrara e del Liceo Musicale di Bologna. Quanti concerti e tanti? Sono 18 concerti in 15 giorni. Quindi occupa tutto il mese. Musicisti da 16 paesi. Ecco, anche questo è importante. Partenza con Charlemagne Palestine, che sarà insieme a Rhys Chatman, For Angelica, bello questo titolo. Sì, Two for Angelica, sì, due per Angelica. Mi piace perché effettivamente sono due persone, musicisti, che sono già stati ospiti di Angelica, che però per come sono loro hanno qualcosa anche di svincolato da influenze di un certo tipo, e questo mi piace perché anche il percorso di Angelica ha cercato un po' di essere un, sì, po' al di fuori di alcuni meccanismi. Quindi l'inizio il 30 aprile, si percorre tutto il mese. Radio Città Fusico, lo sai che c'è, che seguiamo, sì, costantemente. Grazie, grazie a grazie, voi. Grazie. Tante emozioni, grande musica. E cosa aggiungiamo ancora? Una grafica molto bella e particolare. Sai che vorrei fare due chiacchiere anche con chi ha la modalità di portare. Parla con Massimo Golfieri. Perfetto. E lui ti dirà quante volte abbiamo litigato, quante volte abbiamo discusso in questi non 35 anni, perché lui è fotografo dal primo, sì, anno, ma la grafica l'ha curata dal 90. Beh, sono più di 25, anzi sono più di 30 anni. Sono più di 30 anni. Però per dire che in realtà anche in una sana discussione c'è una possibilità di andare oltre noi stessi, sì, e non fermarci, no, così, no? Poi tante strade poi si separano, noi siamo ancora insieme. E Angelica anche questo, sì, e vi assicuro che è tanto di più. Grazie Massimo, grazie di cuore. Grazie a voi.